Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. E dopo l'appuntamento dedicato ai più giovani, l'appuntamento dedicato a tutti quelli che sono all'ascolto di Radio 24 il sabato pomeriggio, siamo in diretta con il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di due punti: musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube. Come contattarci? 349-238-6666, 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp, ma c'è anche il mio account di Twitter, @ Marta Cagnola. Di cosa parleremo in questa prima mezz'ora? Beh, avremo l'appuntamento con il nostro gastronauta, ma subito parliamo di tecnologia e iniziamo così. Way you do it, you play the guitar on MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Parliamo di soldi, parliamo di money. E questa volta non dirò che è in collegamento da un luogo ignoto, perché è davanti a me in studio Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, ciao a tutti. Questa volta rapito in studio. Beh, eri in turno questa mattina in radio. Ho mangiato una brioche questa mattina alle 5:30, meravigliosa. E perché Enrico piace far l'alba ogni tanto, far la colazione presto. Sì. Allora, a un certo punto io sono arrivata in radio e mi ha detto: di cosa parliamo oggi? Tra una cosa e l'altra, siamo andati a bere un caffè insieme e ha detto: ecco di cosa parliamo. Sì, perché in questi ultimi giorni sto offrendo il caffè qui in giro, dimostrando che si può acquistare il caffè con lo smartphone. Ah, quindi tu per dimostrare paghi caffè a tutti. Occhio. Quindi mi costa un po'. Occhio. Perché devo dire d'occhio. Perché devo dire che allora questa settimana ho speso una decina di euro. Mica tanto. No, dai. Però devo dire che c'è un po' di molti sono refrattari a queste novità. Invece io penso che sia una delle cose più belle che ci permette di fare lo smartphone, cioè quello di, non dico abbandonare il portafogli, dove io peraltro tengo veramente, a volte non ho proprio soldi. Sì, anch'io sono un disastro, a volte vado in giro con 5 euro, 10 euro. Bisognerebbe insomma avere un pochettino per emergenza, però devo dire che ultimamente stanno nascendo e si stanno moltiplicando i servizi, e ce ne sono tantissimi, perché dovete sapere che la regolamentazione europea in fatto di pagamenti è la regolamentazione più liberista del mondo, e quindi stanno nascendo molte applicazioni, molti servizi che ci permettono di pagare con lo smartphone in varie modalità, anche di scambiarci semplicemente soldi tra me e te. Cioè, usciamo a cena insieme, dividiamo e io dico: ah, ma ti devo 20 euro e esatto. Tu mi dici magari 20 euro, ma a volte mi devi dare 18,50. Ah, ecco, infatti ti devo 18,50 euro. Ma io scusa, ho il resto, 50, non ma io ecco. Fine di tutto ciò, oggi ci sono una serie di applicazioni anche di natura bancaria, cioè di derivazione bancaria, che permettono ad esempio, e questa è una delle cose che si può fare, di scambiarci semplicemente soldi. Tutto collegato col nostro conto corrente. Diciamo che noi apparteniamo ad un paese dove quasi tutti hanno un conto corrente, quindi partiamo da questa, certo, da questa base. In questo modo, poi ci sono anche altre soluzioni che sono svincolate dal conto corrente, però devo dire che ultimamente sto vedendo un'esplosione di questi servizi, proprio perché forse sono i più economici, svincolati dai sistemi di carte di credito. Conto corrente bancario, io posso scambiare i soldi. Cioè posso non avere una carta di credito? Assolutamente, certo. Forse il sistema più diffuso in questo caso per il puro scambio di soldi, però fa solo quello, si chiama Giphy, che è stato creato da una società che si chiama SIA, che lavora per le banche, e molte banche lo hanno fatto proprio, e quindi molte banche italiane hanno questo servizio. Quindi io ce l'ho, lo metto sullo smartphone, funziona un po' come WhatsApp, io guardo i miei contatti, se tu sei tra i miei contatti che ha questa soluzione posso darti i soldi. Ok, facilissimo. Semplice. Ci sono però delle startup che stanno facendo molto di più. A me quella che piace di più di tutte è Satispay, che è una di quelle che sto usando in questo periodo, perché è completamente svincolata da tipi di sistemi operativi, certo, sia per Android che per iOS e non purtroppo per Windows Phone, però, devo dire che facciamo il 99% del mercato. In questo modo non solo io posso scambiare dei soldi tra me e te, ma posso anche andare in un negozio che ovviamente deve essere convenzionato, ma questi negozi stanno crescendo. Come li scopro? Come scopro quali sono i negozi? Allora, o vedo il simbolo sul negozio oppure l'applicazione mi dice dove sono. Perfetto. Ci sono altre soluzioni, ad esempio BancaSell ha fatto un'applicazione che si chiama Hype, che fa una cosa simile e serve per scambiare denaro tra me e te. In questo caso è collegata anche ad una carta di credito, quindi c'è ancora la carta di credito, ma è un'altra soluzione. Posso farti una domanda molto di quelle molto... Sì, sì, ma sì. Come ci guadagnano queste app? C'è una commissione? Allora, alcune di queste, queste applicazioni, tipo ad esempio Satispay, fino a 10 euro non ha commissione. Quindi se io pago il caffè, anche l'esercente non paga commissione. Uh-huh. Ed è per questo motivo che si sta diffondendo in alcune città del nord Italia sicuramente. Però in generale c'è il principio e la commissione. Okay, sì, sì, il principio e la commissione. Però queste commissioni stanno diventando sempre più basse. E qui infatti vorrei dire una cosa sia ai consumatori, ai cittadini, sia ai commercianti. Allora, la scusa del ma le commissioni sono molto alte non regge più, perché soprattutto sul sistema bancario Bancomat le commissioni si stanno abbassando, a parte che ci sono anche delle norme europee che entreranno in vigore da qui nel giro di un paio di anni, che abbasseranno ulteriormente le commissioni, ma al di là di quello già il mercato sta abbassando, quindi ci sono tantissime soluzioni che abbassano il costo delle commissioni. Poi c'è anche da dire che ci sono studi che dimostrano che il costo del contante è un costo che a volte è superiore alle commissioni che ci vengono applicate dai circuiti vari, bancomat o carte di credito, perché avere il contante e gestire il contante è un costo anche solo in termini di rischio. Certo. Perché se io ho 5.000 euro in cassa, leggiamo tutti i giorni cronache o le ascoltiamo alla radio o le vediamo in televisione, ci sono furti ovunque, è molto più facile che rubino un portafogli, una cassa con del contante, piuttosto che attacchi informatici che sono molto più complicati, anche perché questi sistemi sono straordinariamente sicuri. Ecco, guarda, la domanda successiva che volevo farti, ecco l'appunto, sicurezza. Ma sono sicurissimi questi sistemi. Io pago con carte da tantissimo tempo, uso sempre queste applicazioni. Quindi come le applicazioni, non dobbiamo avere paura che... No, anche perché il sistema bancario e il sistema delle carte di credito ha, oltre che dei sistemi tecnologici per proteggerci e per proteggersi, anche dei sistemi di, chiamiamoli, assicurativi. Cioè, se subiamo un furto ci viene restituito il denaro. Questo nel 99,9% dei casi. Non c'è dubbio, e su questo sono sicuro all'8000%, non c'è dubbio che i sistemi elettronici siano molto più sicuri dei sistemi analogici. Pensate a quante volte avete sentito, o purtroppo vi è capitato, di o perdere soldi. Guarda, ieri mattina sono andato a fare un'intervista. Mentre passeggiavo per tornare alla metropolitana c'era una signora che guardava per terra. Io mi sono incuriosito e ho detto: ah, signora, queste, perché vedevo un po' dubbioso, ho detto: signora, sono 20 euro questi, li ha trovati, se li prenda. E glielo ho raccolti, perché era una signora un po' anziana. E quelli sono stati persi da qualcuno. Certo, no? certo. Non invece c'è lì. Poi queste cose sono anche divertenti. Io questi giorni, offrendo il caffè con è l'app, costata 10 euro, eh? Sì, però mi diverte un sacco e diverte anche il poi mio 10 euro ospite. Di generosità, certo. Io ti ho interrotto, avevi citato PayPal. Sì, anche PayPal ha la soluzione solo smartphone, perché una delle cose che stanno avvenendo è che veramente lo smartphone può sostituire sia le carte sia i contanti, ovviamente. Anche i sistemi di carte di credito, alcuni sistemi di carte di credito hanno un'applicazione, con quell'applicazione possiamo fare dei pagamenti. Tipicamente possiamo fare dei pagamenti online. Io quest'estate con una carta di credito ho comprato un viaggio online, ma l'ho pagato sì con il sistema di carta di credito, cioè con il circuito di carta di credito, ma con lo smartphone. Cioè tutte le operazioni le ho fatte con lo smartphone. Ok, ok. Devo anche dire cioè che... non dando il numero della carta di credito, cioè usando la carta di credito nella maniera tradizionale, ma queste app di smartphone. Usando l'applicazione della carta di credito, mettendo un codice per pagare online. È complicato però... Allora, devo dire, più che complicato ci sono tantissime proposte. Cioè, come ci sono, scegliere allora? È molto complesso. Allora, sicuramente se la vostra cioè, banca facciamo vi offre... che intanto tu le provi tutte, noi chiediamo consiglio a te. Ah, io mi diverto un sacco, sì. Sicuramente se la vostra banca vi offre un servizio di questo genere, potrebbe essere il modo per entrare in punta di piedi in questo mondo completamente digitale. Poi ci sono molte applicazioni. Ripeto, secondo me Satispay ha una marcia in più rispetto a molte altre applicazioni. Mi piace ci molto si può iscrivere da... o bisogna essere invitati? No, ci si può iscrivere. Oh, perfetto. Sì. Beh, diciamo, se ti invito ti becchi un 5 euro di ah, bonus. Ah, ok, sì. Certo. Però vabbè. Sì, insomma. Sì, no, ci si può iscrivere. Sono tutte paperless, cioè senza invio e ricezione di carta, non è che devi fare delle firme. Fai la fotografia al documento, tutto viene abilitato nel giro di pochi giorni. Ci sono vari sistemi, citavo prima PayPal. PayPal è collegato ad una carta di credito, tipicamente collegato ad una carta di credito, quindi potremmo dire non ha limiti, almeno il limite è quello della carta di credito, se abbiamo un limite sulla carta di credito. Alcune di queste applicazioni, come ad esempio Satispay, ragionano invece in altro termine, cioè sono dei borsellini elettronici, noi abbiamo un budget, mettiamo questo budget, possiamo spendere questo budget fino a che non l'abbiamo ricaricato. Ci sono varie modalità e devo dire che più che complicato in sé, la complicazione di questo mondo è dovuta al fatto che ci sono tantissime proposte e le proposte sono una diversa dall'altra. C'è una che funziona come borsellino elettronico che devo ricaricare, l'altra che è collegata direttamente col conto corrente, l'altra che è collegata alla carta di credito, però... come in tutte le cose bisogna buttarsi e poi dopo un po' si capisce. Domanda via WhatsApp al 349-238-6666. E se ti rubano il cellulare? Se ti rubano il cellulare, ormai abbiamo mezza vita dentro al cellulare e di conseguenza no, non ci sono problemi perché queste applicazioni hanno un PIN, hanno un codice segreto, se mi rubano lo smartphone muoiono con lo smartphone. Io posso disattivarle, disabilitarle, posso riattivarle su un altro smartphone, non c'è nessun tipo di problema. Cioè come tutte le app che ho aperto con lo smartphone, sì. Cambio le password. Allora, devo dire che il rischio che, visto che molte di queste app si chiudono dopo un po' che non vengono utilizzate, oppure quando io le chiudo si proteggono dietro ad un PIN, quindi se mi rubano lo smartphone e magari non l'ho protetto con il PIN e possono usare il mio smartphone, molto difficile che possano essere utilizzate queste applicazioni. Dopodiché, se l'applicazione è un'applicazione collegata alla carta di credito, posso bloccare la carta di credito. Se è collegata ad un budget, quindi a un borsellino elettronico, mal che vada, ma è molto molto direi impossibile, mi consumano, io ho 25 euro quindi al limite ci perdi 25 sì, ma non che è un sono problem, 25 non è il caffè problema. Cioè secondo me oggi fa sì sono 25 caffè giusto? Almeno 10 caffè e mezzo che offri. No, ma non è più il problema, secondo me è sbagliato porsi questa domanda, è sicuro? Cioè tu quando prendi un'automobile, ma ti domandi se è sicura l'automobile? Non è più la domanda da farsi, cioè no, ma io sfido chiunque, mi dovete dimostrare che qualcuno hanno rubato soldi in un'app di pagamento elettronico. Solo per sbadataggine. Ah beh certo, se uno lascia lo smartphone aperto, però anzi diciamo che tra le brutte cose che possono capitare, se ti rubano lo smartphone oppure se tu lasci lo smartphone non protetto da PIN o impronta digitale eccetera eccetera, secondo me quella che ti rubino i soldi, che è comunque molto rara e molto, molto difficile, secondo me è impossibile, è forse la più auspicabile. Ecco un ascoltatore se al 349... ti entrano in Facebook, pensate se entrano in Facebook col tuo account possono fare dei disastri, no? Sì, non solo aggiornare come fanno qua in radio quando qualcuno apre, lascia un computer aperto, aggiornare con degli certo, status. Sì, c'è certo. Un ascoltatore che ci segnala l'app Soldo. Se non l'hai ancora provata, non di la provare conosco, anche non mi risulta che sia molto diffusa. Però, però proviamo anche questa. Grazie Enrico, ci ritroviamo la prossima settimana. Non so se sarà in studio con me o da qualche parte, così come di consueto, però ci ritroviamo sabato prossimo Enrico. All right. Adesso no, vado a provare l'app, però, fra un quarto d'ora se vuoi ti do una risposta. Sì, faccio un altro blocco del Sabato del Villaggio e poi ci rivediamo in redazione. A tra poco! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. No, Enrico Pagliarini non è convinto da questa app, dice che non è esattamente quello che intendeva lui, perché no, permette di ricaricare ma non di pagare direttamente. Ma no, infatti completamente, cioè completamente magari no, però poco utile, mi sembra poco utile. Era un post scriptum, ciao. Adesso sì, ti devo salutare perché c'è un altro uomo nel mio cuore. Adesso si beve, eh? Si beve, si sì. Mangia. Tu ascolta. Buongiorno a Davide Paolini, ciao Davide. Buongiorno a tutti, buongiorno, eccomi qua. Eccoci qua, ha detto si beve perché io ho già anticipato prima Enrico di cosa avremmo parlato. Bollicine, ma non ci ubriachiamo stavolta, no, neanche da lontano. No, sul serio, ma poi io dopo alla fine ti darò la chicca di un posto dove ho mangiato, devo dire che sono andato in paradiso. Lo segnaliamo anche per i nostri radioascoltatori. E anche per il nostro Pagliarini, che è sempre molto attento. Sì, infatti è vicino a Bologna questo posto, per cui forse Pagliarini, che è quasi di casa, lì può anche andare. Le bollicine, e mi sono accorto che stanno tornando in maniera molto forte. Quello che un tempo erano le bevande dell'oratorio. Ecco, lo dico ridendo e scherzando, ma insomma, ma la spuma nera o la spuma bianca, oppure il chinotto. Queste qui erano le bevande quando ancora la Coca-Cola magari era per pochi che magari vivevano in città, ma nelle periferie d'Italia cosa si beveva? Chinotto, spuma bianca, spuma nera, gazzosa. Dalle mie parti c'era la marca Johnny, che aveva l'ometto che faceva l'occhiolino, Johnny apri l'occhio, il mio ricordo di infanzia, gazzosa e spuma. Gazzosa e spuma era veramente un accostamento incredibile, ma anche gazzosa e birra, ma anche gazzose vino, quindi già allora si facevano dei cocktail molto molto particolari. Ma sai, questo grande ritorno, perché è un grande ritorno, cioè lo si vedono, ci sono diverse marche ormai che hanno ricominciato a produrre questi prodotti che sembravano completamente perduti. Soprattutto, vabbè, nessuno riproduce più una cosa che anch'io mi hanno raccontato, ma poi ho visto come cimelo, che era la gazzosa quando c'era la pallina. C'era dentro una pallina di sfera in cui i bambini andavano a ruba, la cercavano, perché poi alla fine di aver bevuto questa gazzosa volevano tirar fuori questa sfera di acciaio che era appunto in questa bibita. Ma stanno tornando in un settore che sta esplodendo, che è quello dei panini. In tutta Italia ormai è un fiorire di paninoteche, il panino giusto, il panino di pesce, con tanti nomi diversi, e si torna dei panini, e sicuramente tutti hanno mangiato il panino. Chi non ha mangiato il panino con la mortadella da ragazzino per far merenda? L'hanno mangiato un po' tutti, ma ora diventano dei panini importanti, perché dentro non c'è solamente la mortadella, vicino alla mortadella si mette un formaggio, vicino al formaggio ci si mette una salsa, quindi diventano dei veri e propri piatti. E dietro questi banchi ci sono dei ragazzi, dei giovani, perché per lo più sono giovani, i quali si sentono, come posso dire, si sentono cuochi e quindi fanno questi accostamenti molto, molto particolari, molto, molto rari, e cercano appunto di fare dei panini per assomigliare sempre di più a dei piatti. E questo boom veramente è notevole. Poi c'è chi anche cerca dei pani particolari, perché non si fa più solamente con la ciriola, come dicono a Roma, certo, o con la con me? Come dicevo, no, dicevo come, certo, con la micchetta Milano. Con la micchetta Milano o con la baguette. Ora si cercano dei pani particolari. Addirittura ci sono alcune paninoteche che fanno fare dei pani speciali. Per ogni panino fanno fare una forma anche del panino speciale. Ultimamente ho assaggiato delle cose anche molto particolari con la piadina, ma addirittura con la piadina di castagne, quindi si va molto sempre di più sul sofisticato, ma in fondo è anche giusto, perché col panino praticamente si fa un pranzo, e quindi perché magari mangiare altro? Un panino è molto sano, anche i vegetariani possono mangiare un panino, perché se dentro si possono mettere solamente delle verdure. Anche qui, certo, vedo che sempre più le paninoteche hanno il panino vegetariano. Ora, panino vegano ancora non l'ho visto, però i panini vegetariani ne ho già visti tanti, e sicuramente io non li ho visti, ma ci saranno anche i panini vegani. Quindi panini per tutti, e ci sono anche i panini per i celiaci, perché vengono fatti in maniera particolare con diciamo combinati con un qualcosa che non contiene glutine. E è una nuova formula, vecchia come il cucco, come si dice, però che sta tornando veramente fuori ed è anche a buon mercato, perché indubbiamente un ottimo panino con 8 euro si può mangiare, 10 euro si può mangiare. Se uno poi ci beve una di queste bibite che ho citato all'inizio, costano intorno a 2 euro, 2 euro, certo, e mezzo, insomma c'è un pasto completo. Volevo ricordare comunque sul chinotto. Il chinotto è un mondo particolare perché c'è ad esempio un'associazione degli amanti del chinotto. Anni fa addirittura facevano delle degustazioni verticali per capire appunto tra le varie marche qual era la migliore. C'è un romanzo che è uscito che si chiama Il Chinotto, di uno scrittore giovane che ha raccontato il suo mondo attraverso il chinotto. C'era una vecchia canzone che si chiamava Chinotto col K davanti. C'è un film che si chiama Chinotto. Quindi il chinotto è veramente un qualcosa di molto interessante, di molto importante. Ecco, però tutti sul chinotto non si chiedono: ma da dove arriva? Ecco. Allora, la pianta di chinotto è una pianta molto particolare che assomiglia molto al mandarino, è molto diffusa nel Savonese e in Calabria, ma è una vera e propria pianta che dà dei frutti molto, molto stringenti. È difficile mangiare il chinotto senza che magari sia messo sotto malaschino oppure sia condito in qualche maniera. Però è una pianta straordinaria e io devo dire che sono molto affezionato a questa pianta. E poi ci sono anche alcuni salumieri che fanno dei prodotti, ad esempio a Coppa di Testa c'è un salumiere in provincia di Imperia, il quale fa una coppa di testa con il chinotto. Quindi diciamo il chinotto insomma a 360 gradi. Con poi la spuma era veramente sparita. Sì. Ora vedere questa spuma bianca, che qualcuno ti chiede spuma bianca o spuma nera, insomma uno dice siamo tornati al 1960, anni 60 in oratorio oppure nei bar di periferia dove magari si guardava la partita e si voleva spendere poco. Bene, oggi invece hanno avuto questa rivalutazione e ben vengano queste cose, magari non so, qualcuno scriverà un altro bar sport dove racconterà appunto non più solo della Louisiana, ma racconterà anche di queste straordinarie bevande. Abbiamo parlato qualche settimana fa con la nostra Alessandra Tedesco dell'anniversario di Bar Sport. Davide, prima di salutarci, allora dacci quella chicca che ci hai promesso. Allora, questa chicca si chiama Antica Osteria del Mirasole ed è a San Giovanni di Persiceto. Allora, chi volesse mangiare dei veri tortellini alla crema di latte e non alla panna, lo sottolineo, ma con la panna già a fioramento, questo è il posto giusto, ma non solo. È una trattoria dove c'è un focolare, quindi un bel caminetto, dove si mangiano delle carni straordinarie molto scelte, quindi si può mangiare di tutto, dalla carne di vitella, oppure chi vuole mangiare una faraona alla cenere, veramente dove ancora il sapore della faraona, o ancora un cibreo di rigaglie e fegatini di pollo, bene, il cibreo di rigaglie e fegatini di pollo. Lo ripeto, piatti d'antan, io ormai sto tornando indietro, sto tornando decisamente alle trattorie, ma devo dire che è il massimo dell'espressione della cucina, è il massimo dell'espressione dei piaceri. Ho così parlato solamente di 2 o 3 piatti, però potrei continuare ancora a lungo perché qui veramente chi vuol mangiare la carne di cortile e le frattaglie si trova a proprio agio. Cose che non si mangiano quasi più, e anche sui primi piatti io ho parlato solamente dei tortellini. Beh, ma non svelarci tutto però, Davide, noi ci siamo segnati l'indirizzo, dobbiamo salutarci, Davide. Va bene. È il momento di dare la linea al nostro giornale radio, l'indirizzo l'abbiamo segnato e noi ci troviamo sabato prossimo. Grazie a Davide. Ciao, Paolini, ciao Davide. Ciao, noi ciao. Appunto diamo la linea GR24 delle 16, c'è Anna Migliorati già pronta, poi noi ci ritroviamo con la seconda ora del Sabato del Villaggio. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Il sabato del villaggio. Ed eccoci pronti per la seconda ora del sabato del villaggio, sempre in diretta, sempre 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp. C'è anche chi mi ha mandato gli auguri, grazie, vabbè lasciavo perdere che dopo una certa età, vabbè, 349-238-6666 per sms e whatsapp, dicevamo, ma c'è anche il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola. Di cosa parleremo in questa seconda ora? Beh, di libri con tutti quelli da non perdere per la nostra Alessandra Tedesco. Parleremo di consumi e di dritte per risparmiare con Maria Luisa Pezzali, tutte le uscite al cinema di questo fine settimana, ma proprio con il cinema parliamo perché abbiamo seguito un evento questa settimana, vogliamo sapere anche un po' come è andata a finire con la festa di Roma. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to the top. We created paradise. You're so incredible. Your kids are amazing. I miss Mom. Mom needs to be in the hospital right now. Captain Fantastic, il trailer è ancora in inglese, insomma è un film che è appena stato presentato alla Festa del Cinema di Roma che si conclude in queste ore e proprio Captain Fantastic vince l'unico premio che viene attribuito in questa festa, che è il premio del pubblico, quindi non poco. Il film con Viggo Mortensen è quello che è stato più gradito dal pubblico della Festa di Roma e ci colleghiamo subito con Roma. Sono molto contenta di ritrovare al Sabato del Villaggio Federico Boni, ciao Federico. Ciao Marta, buonasera. Allora, in arte anche Dottor Apocalypse, su Twitter Dr. Apocalypse. Noi ti leggiamo non solo sul tuo fantastico spettegules.it, ma anche su Cineblog con tutte le tue recensioni. Com'è questo Captain Fantastic? Sei contento del premio? Sono contento a metà, devo dire. Il mio vincitore era Manchester by the Sea, che a mio avviso troveremo agli Oscar in massa. In tanti mi dicevano questo Manchester by the Sea poteva vincere, invece sì. Ce l'ha fatta invece Viggo. Alla fine l'ha spuntata Viggo, che era in, come dire, presentato in collaborazione con Alice nella città, quindi un film diviso in due, che è Alice è la sezione parallela e autonoma della festa. È un film che oggettivamente strizza molto l'occhio al pubblico, che si fa piacere perché diverte e commuove al tempo stesso, quindi diciamo che il premio del pubblico è giustificato, era forse anche intuibile, io l'avevo dato dalle papabili nella giornata di ieri. Quindi la storia di un uomo che si isola dal mondo con la sua famiglia, dopo, con i sei figli, con una grossa famiglia, e poi ritorna a vivere, tra l'altro film che uscirà il 15 dicembre in Italia, sì, quindi natalizio con Good Film. Ecco. Diciamo che in qualche modo è un film che con coraggio attacca anche la società americana di oggi, la società contemporanea consumistica, tant'è che negli States non è andato benissimo, è cassato solo 5 milioni, anche se ha raccolto critiche abbastanza positive. Ed è un film coraggioso perché guarda anche alla genitorialità, quindi a cosa significa essere genitori al mondo d'oggi e a cosa significa soprattutto crescere dei bambini in questa società che, onestamente parlando, tende soprattutto al materiale e quindi ai consumi, a tutto ciò che è, come dire, visibile e magari poco culturale. Invece Manchester by the Sea, che tu ci consigliavi con Casey Affleck e Michelle Williams, vedo che esce anche quello in dicembre, primo dicembre. Bello sapere che i film che si sono visti nei festival escono anche, non magari non subitissimo, ma molto presto in sala. Questa è una sì, mia... Stranamente non a ridosso degli Oscar, perché di solito la distribuzione italiana aspetta sempre gennaio-febbraio per poter mettere sul poster candidato a 12 premi Oscar. Ecco, invece... Quest'anno anticipano e li vedremo a dicembre, questo è positivo. Anche perché veramente Manchester by the Sea è un film bellissimo. Prodotto da Matt Damon. Sì, prodotto da Matt Damon, che doveva anche interpretarlo. Poi stranamente per problemi logistici con altri film non ha potuto farlo. E la fortuna di Casey Affleck, che con questo titolo finalmente potrà, a mio avviso, decollare definitivamente. Quindi altro film da tenere d'occhio. Cosa ti è piaciuto molto alla Festa di Roma, a parte Meryl Streep, perché ho visto dei tweet entusiasti da parte tua? Beh, perché lei è divina, sempre e comunque molto disponibile ed è stata effettivamente fantastica. Ma devo dire che il fatto che il festival sia tornato festa come agli inizi, quindi e che sia riuscito a coinvolgere magari anche quel tipo di pubblico che è poco cinefilo, perché si sono visti anche incontri musicali, c'è stato Jovanotti, c'è stato Michael Bublé, ci sono stati premi, cioè le scrittori, architetti, ci sono stati vari incontri con personaggi interessanti che hanno quindi ampliato la fetta del pubblico e l'auditorium in qualche modo ne ha beneficiato. Sono stati diramati dei numeri con un più 18% di pubblico, che è positivo rispetto allo scorso anno. Tra l'altro tu hai twittato che in 10 anni di festa, trattino Festival di Roma, non avevi mai visto tanti film di qualità. Sì, la qualità è stata media alta. Va detto che Monda, a mio avviso, ha fatto bene, ha, come dire, abbandonato l'idea folle delle anteprime mondiali, tipica di Venezia, ma Venezia è un'altra cosa, prendendo semplicemente il meglio dagli altri festival. Quindi quello che si è visto a Toronto, al Telluri, quello che si è visto al Sundance, al Tribeca, perché non portarli in Italia? Perché non portarli a un pubblico che magari non vedrebbe quel tipo di film al di fuori di un evento come questo? Prendendo il meglio, alla fine ha tirato fuori un programma estremamente notevole. Abbiamo visto veramente dei gran bei film. Di italiano ti è piaciuto qualcosa? Di italiano abbiamo visto veramente poco, purtroppo, ecco. Quindi nei bei film di italiano non ci sono stati. Devo ancora vedere Michele Placido, entro in sala fra 10 minuti, quindi non metto bocca. Infatti ti abbiamo chiamato adesso di corsa tra, esatto, una proiezione e l'altra, perché sappiamo che vai a vedere 7 minuti tra per poco. Per il resto no, molto deludenti a partire da Vicari. Diciamo che è un periodo un po' no per il cinema italiano. Già a Venezia avevamo visto film abbastanza, come dire, evitabili. Anche in questo caso non c'è stato il Cicrobò dello scorso anno, certo. Era chiedere troppo un altro Cicrobò, però è evidente che lo scorso anno fece il boom. E venne presentato proprio a Roma, sì, Cicrobò, quindi... Partato a Venezia, presentato a Roma per la gioia di Monda, e da qui poi, come dire, decollò verso i Davide, i Nastri. Infatti il film della povera Karen di Porto, Maria per Roma, che pure appunto noi ci eravamo incontrati in sala stampa a Roma, io l'avevo trovato carino, però presentandolo come il nuovo Cicrobò, insomma, non gli fa un favore. No, sì, è vero, è stata una presentazione errata da quel punto di vista, concordo. Perché c'erano... Senti, l'incontro più bello invece, l'incontro con il pubblico, che sono una delle caratteristiche più belle di Roma, qual è stato? Meryl? Giovanotti? Ma Giovanotti è quello che probabilmente ha avuto più seguito. C'è stato il delirio quel pomeriggio all'auditorium con l'arrivo di Giovanotti. Meryl Streep però devo dire che ha creato clamore. C'era veramente tanta gente, per essere semplicemente, tra virgolette, un'attrice e non una cantante, una pop star. Beh, e poi lei è stata meravigliosa anche come appunto disponibilità, come gentilezza, ha fatto autografi chiunque, foto a destra e a manca. E anche Tom Hanks, devo dire, il secondo giorno si è dimostrato quel gran signore che è, ovvero uno degli attori hollywoodiani più alla mano, anche se, come dire, più celebri e stimati su piazza. Bene, bene, che meraviglia. Federico, ti lasciamo andare a vedere il film di Michele Placido, perché così lo vedi fin dall'inizio. Io adesso twitto ancora il tuo account di Twitter, così per chi volesse seguirti, Dottor Apocalypse, chioccioletta DR Apocalypse, ma magari twittato è più facile che detto a voce. Però ti leggiamo anche su Cineblog e sul tuo blog spettegules.it, davvero sempre molto gustoso, anche se talvolta un po' hot. Grazie a Federico Boni. Buona grazie serata, mille, buon pomeriggio, ciao, a presto, ciao. Allora, sono le 16:15 minuti, quindi traffico, poi ancora un'altra pagina del Sabato del Villaggio. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio è il momento di aprire la pagina dei libri. Per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti come un pazzo che ti vuole completamente. regia RadioTube saranno con noi i The Giornalisti, e quindi, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, così introduciamo un po' di pagine del nostro Sabato del Villaggio con questo gruppo che a me piace tantissimo. Chissà se lo conosce la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra, li conosci? Confesso allora la mia ignoranza nel campo musicale. Allora, siccome loro sono uno dei gruppi del momento, veramente, ascolta RadioTube, dopo così li conosci. Va bene, così mi metto alla pari. Faccio sempre delle brutte figure sulla musica. Ma tu sei qui per raccontarci dei libri, per dirci quali sono i libri di cui si parla e dei quali noi dobbiamo sapere tutto, un po' per far bella figura in società. Non si sa mai, hai sempre letto il libro del momento, ma anche perché ci sono cose davvero molto interessanti sulle quali vale la pena così puntare il riflettore e capire di cosa si parla, ma perché vale la pena, perché vale la pena davvero leggerli. Guarda, io questa settimana non ho avuto dubbi, l'ho messo anche su Twitter, sul mio account, ho detto sto leggendo La Vegetariana e ve ne parlerò al Sabato del Villaggio, poi vi proporrò l'intervista con l'autrice, la sudcoreana Ahn Kang, nella Cacciatore di Libri prossimamente, perché è un libro secondo me strepitoso. Ripetiamo il titolo: La Vegetariana, Ahn Kang, pubblicato da Adelphi. E Alessandra, quando si parla di vegetariani a Radio 24 è sempre un terreno un po' minato, quindi spiegami subito cos'è questo libro. No, guarda, non è né un manuale né assolutamente qualcosa, è un romanzo intenso, potentissimo, forte, struggente. È una botta allo stomaco in un certo senso, perché è un romanzo dove la protagonista, praticamente cosa succede? Questa donna inizia lentamente a non voler mangiare più carne. Perché? Perché dice che ha fatto un sogno. Poi lentamente, a spizzichi e bocconi, si capisce qual è il sogno che ha fatto. E il marito inizia a non comprenderla più, lei inizia ad avere un rapporto strano con il suo corpo, perché in realtà alla base di tutto c'è un problema mente-corpo. Lei si lascia andare, dimagrisce tantissimo, c'è una scena molto forte, lo posso dire perché è anche abbastanza all'inizio del romanzo, nella quale il padre, che nella società sudcoreana insomma ha una rilevanza importante, poi questo è un padre particolarmente duro, davanti a tutti, davanti a un pranzo di famiglia, le apre la bocca con la forza e le mette un pezzo di carne in bocca e poi la schiaffeggia. Per questo dico, è un romanzo bello tosto. E lei a quel punto compie un gesto che naturalmente non vi dico perché dovete leggere assolutamente questo libro, e poi verrà rinchiusa in una clinica psichiatrica, poi uscirà, succedono poi tante tante cose, perché ci sono come tre macro capitoli che analizzano la storia di questa donna attraverso punti di vista diversi e fatti diversi che le accadono. Non posso non chiederti a chi lo consigliamo, visto che mi sembra un po'... Guarda, è un romanzo tosto, l'ho detto, non è neanche lunghissimo, perché sono circa 200 pagine, insomma sono al di sotto delle 200 pagine. Questo è il libro che tra l'altro ha vinto il Man Booker International Prize e ha avuto un grandissimo riconoscimento. Io lo consiglio a uomini e donne magari dai 30 anni in su, perché capisco bene insomma che le tematiche sono anche un po' forti. E diciamo a chi ha voglia di scavare proprio nell'animo umano, nelle pieghe dell'animo umano e nel rapporto mente-corpo, e non ha paura a farlo, insomma. Intenso, direi. Guarda, La Vegetariana, io mi sono veramente appassionata a questo libro e lo consiglio col cuore, perché è un libro veramente bello, bello, bello. Ancora consigli? Consigli, Kathleen Shine, questo nome forse vi ricorderà qualcosa, scrittrice americana, La lettera d'amore? Certo. Sto parlando di un libro forse del 95-96, di tantissimi anni fa. E poco tempo fa è stato pubblicato in Italia Le cose cambiano, da Mondadori. Lei è sempre appunto l'autrice americana Kathleen Shine. Questo è un libro bello, intenso, anche se diciamo in modo diverso rispetto alla vegetariana, perché parla di come invecchiare e di che cosa succede nelle famiglie quando la madre o il padre invecchiano. La protagonista è questa Joy, una specie di matriarca di questa famiglia newyorkese, che all'improvviso purtroppo diventa vedova perché il marito soffriva di Alzheimer, così, quindi rimasta sola, i figli Molly e Daniel non sanno tanto che pesci prendere, cioè non sanno come trattarla dal punto di vista psicologico e dal punto di vista anche pratico, fisico, insomma. Ti leggo l'incipit perché secondo me è molto bello ed è indicativo di come questo romanzo sia molto incentrato sul rapporto genitori-figli, ma soprattutto madre-figlia. Molly Bergman si trasferì in California e a sua madre si spezzò il cuore. Ci sono figlie che passano la vita a cercare di sfuggire alle loro madri, che appena possono si trasferiscono nella loro California personale, che non smettono mai di trasferirsi in California. Molly non era decisamente una di queste. Il suo fu uno spostamento doloroso, anche prima che i suoi genitori diventassero così vecchi, così all'improvviso. Diciamo che colpisce alcune corde di chi ha superato una certa età. Eh sì. Comincia a vedere i propri genitori invecchiare, insomma, e comunque cambiare, magari dover diventare genitori dei propri genitori in alcune circostanze. E devo dire che Kathleen Shine descrive questo percorso in maniera, come fa sempre lei, molto delicata, molto armonica anche, insomma, non ci sono degli strattonamenti, ecco, non mi viene un termine più letterario, però lo fa veramente in modo perfetto. Le cose cambiano, Kathleen Shine. Quindi lo consigliamo a... Guarda, in questo caso lo consiglierei a uomini e donne che hanno superato i 40, semplicemente non perché gli altri non lo possano leggere, ci mancherebbe, ma perché forse verso i 40 anni si inizia a capire che cosa vuol dire il passare degli anni e i genitori che invecchiano, perché è l'età in cui in genere i genitori hanno superato i 65, sono sui 70 anni, e allora secondo me quella fascia di età di persone può comprendere molto meglio le parole di Kathleen Shine. Molto molto bene. Hai davanti a te un altro libro che mi incuriosisce molto. Non è un romanzo? Il famoso libro alla radio, lo facciamo sentire. Questo non è un romanzo. Guarda, sai, io sono appassionata anche molto di medicina, di scienza, quindi mi piace veramente vagare fra i libri. Si intitola La dieta della longevità, l'ha scritto Walter Longo, pubblicato da Vallardi. Chiarisco subito, non è il libro di dieta per dimagrire, per l'estetica, quelle cose lì non mi interessano, non ci interessano, non è questo il luogo per parlarne. Questo è un libro serio dal punto di vista scientifico. Chi l'ha scritto è un biochimico noto proprio a livello internazionale per i suoi studi sull'invecchiamento, insegna gerontologia a Los Angeles, è direttore del laboratorio di oncologia e longevità all'IFOM di Milano. Insomma, è un libro serio, non ci sono le figurine, non ci sono le diete, fai così, fai colà. No. Il senso è far capire quali sono gli alimenti e gli stili di vita che purtroppo tendono a favorire l'insorgenza di malattie cardiovascolari, ma anche il cancro. E lui si è inventato questa sorta di dieta mima digiuno, sai che molti fanno il digiuno settimanale, non so, Marco Bianchi, il professor Veronesi, eccetera, e lui dice, per chi non ce la fa proprio a digiunare, che è una cosa positiva periodicamente per il corpo, non per il peso, non ce ne frega niente in questo senso, e ha inventato questo meccanismo di mima digiuno per, come dire, un po' imbrogliare il corpo e far finta che sia digiunato. Quindi serissimo. Serissimo. La dieta della longevità è, dal punto di vista scientifico, assolutamente un libro serio. Molto molto bene. Con cosa concludiamo? Guarda, chiudo con un audiolibro, visto che è il periodo in cui si iniziano a fare i weekend magari fuori porta, qualche bella giornata magari piuttosto dovesse arrivare, e allora vorrei proporre un audiolibro da mettere. Sì, perché così, allora macchina. Uno ascolta Radio 24 sempre. Ovvio. Si scarica i podcast, quindi può ascoltare anche i podcast, però ogni tanto, per variare, secondo me l'audiolibro è un'ottima scelta. Vai alla casa al lago, le caldarroste, il camino, ti metti l'audiolibro, chiudi gli occhi e sogni. In questo caso vi segnalo Gelo, il romanzo di Maurizio De Giovanni, letto come audiolibro da Peppe Servillo, quindi scusami se poco, e come audiolibro è pubblicato da Emmons. Gelo fa parte della, diciamo, della saga dei Bastardi di Pizzo Falcone, perché De Giovanni scrive il commissario Ricciardi, che è un commissario del periodo, dell'epoca, diciamo, fascista, del ventennio fascista in Italia. E invece, ambientato nell'attualità, i Bastardi di Pizzo Falcone, che sono insomma dei poliziotti che indagano su varie vicende. In questo caso si tratta di Gelo, insomma, di un omicidio di un fratello e una sorella, e i bastardi devono indagare. Belli, mi piacciono molto questi consigli. Concluderei con l'ultimo consiglio di rito, e che è quello del cacciatore di libri. Scaricatevelo in podcast, così ve lo ascoltate quando volete, se proprio volete sentire la prima versione, il sabato alle 6:30 del mattino, sempre il sabato in replica alle 22. Stasera, fra gli altri, ci sarà anche Kathleen Shine, di cui abbiamo appena parlato. Grazie Alessandra. Baci. Il sabato del villaggio. Abbiamo parlato della Festa del Cinema di Roma e del fatto che Captain Fantastic abbia vinto il premio del pubblico, che poi il premio ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Avevo detto che usciva il 15 dicembre, no, mi aggiornano il 7 dicembre l'uscita di questo Captain Fantastic con Viggo Mortensen, appunto, apprezzatissimo e applauditissimo dal pubblico alla Festa del Cinema di Roma che si chiude in queste ore. Quindi abbiamo parlato della Festa del Cinema di Roma, tra poco ci aggiorneremo anche invece sulle uscite in sala di questo fine settimana, abbiamo parlato dei libri, quindi non ci resta che aprire invece la pagina dei consumi. Sei diverso tutto, maledetto tempo, maledetto mostro. La mamma è disperata, l'amico se ne frega, e tu vai in giro la sera come un amore impazzito. Beh, continuiamo a sentire questi pezzi favolosi dei The Giornalisti, che lo avevamo anticipato già la scorsa settimana, saranno con noi più tardi in RadioTube. Secondo me il disco più bello della stagione, Luisa, poi te lo faccio sentire, fantastico, favoloso. Assolutamente, perché non lo conosco. Non li conosco, sono straordinari. Invece questo è, lo dicevamo, lo spazio dei consumi e delle dritte. Maria Luisa, ultimamente stiamo dando un sacco di dritte interessanti. Beh, insomma, bisogna diventare consumatori sempre più smart, sempre più informati, preparati, allora ci adeguiamo, insomma, tutte insieme. Fantastico. Ciao Marta, un saluto a tutti, non ho ancora salutato. Siamo entrati così in rebus al volo. Allora, Maria Luisa, diciamo dritte, questa volta abbiamo delle dritte. Sì, sconti e bonus, è un po' il tema che ho scelto per questa puntata. Tra l'altro mi sono divisa le dritte questa volta con la nostra Cristina Lazzati, che poi ci racconta il secondo caso. Partiamo innanzitutto dai numeri dell'e-commerce, quindi parliamo di acquisti online. Ci dicono che un italiano su tre ormai fa acquisti online. Gli shopper italiani sono più di 18 milioni, l'e-commerce, Marta, vale quasi 20 miliardi di euro e tra l'altro è in crescita a doppia cifra anno su anno. E-commerce e caccia allo sconto è praticamente ormai un binomio inscindibile che ci costa, in questo caso lo mettiamo tra virgolette, molto tempo e molti click. Non so a te Marta, ma a me ne costa parecchi. Da tantissimi, poi per me è anche un hobby oltre che una scelta, poi alla fine è anche un passatempo. Se si fa con giudizio, però. Esatto, perché esistono piattaforme che ci aiutano in questo giudizio, in questa scelta responsabile, come RetailMeNot, che è un sito, una piattaforma di offerte digitali che seleziona codici sconto e coupon da usare sui siti di e-commerce. È presente in Italia da qualche mese ed è praticamente il più grande marketplace di offerte digitali al mondo. Allora ci siamo fatte spiegare come funziona da Giulio Montemagno. I consumatori arrivano sul nostro sito in maniera completamente gratuita e possono usufruire di coupon, codici sconto e anche offerte di cashback, quindi riversiamo loro una parte dei loro acquisti e gli diamo la possibilità di fare acquisti presso tutti i loro retailer e brand preferiti in maniera gratuita e ottenendo sconti sostanziali tutte le volte che fanno acquisti su internet. Abbiamo una community di centinaia di utilizzatori che ogni giorno sul sito condividono nuovi codici sconto e li mettono a disposizione di tutti gli utenti della community, verificano loro stessi che il codice sconto su RetailMeNot funzionino e per questo vengono ricompensati con dei punti e al termine di un certo periodo, raggiunto un numero minimo di punti, possono convertire questi punti in voucher o ulteriori codici sconto da utilizzare sempre presso i loro retailer e i brand preferiti. In che misura la ricerca dello sconto è diventata l'elemento trainante dell'e-commerce anche in Italia? In misura molto importante, secondo varie ricerche che abbiamo fatto in Europa e che faremo presto anche in Italia, oltre il 40% di tutti i consumatori ad oggi su internet afferma di fare shopping online per trovare l'offerta migliore. Il 40% dichiara di visitare il maggior numero di siti possibile per trovare la migliore offerta e ad oggi il 55% degli utilizzatori abbandona il carrello, quindi non conclude l'acquisto su un sito commerciante se non ha trovato un codice sconto, una promozione o uno sconto per quell'articolo specifico che sta comprando. Quindi gli italiani, come tutti i consumatori europei, sono estremamente attenti al prezzo e utilizzano internet per trovare quello che cercano pagando il prezzo più giusto e noi mettiamo a loro disposizione appunto decine di migliaia di codici sconti in modo che possano farlo in maniera efficace. Retail Me Not, molto molto interessante, me lo sono già segnato perché insomma appunto a me piace giocare un po' con gli acquisti, se lo posso fare risparmiando anche è un, insomma, è una cosa interessante. Beh, come, utile. Sì. Come 4 consumatori su 10 abbiamo sentito, insomma, certo, una bella cifra, certo, che cercano. Poi mi sembra che sconto. Si vada sempre di più verso questa ricerca consapevole, anche così un po' divertendosi e sfidandosi un po' anche a trovare lo sconto. Mi piace molto, Luisa. Poi ci si vanta anche con gli amici, io l'ho trovato a... Ma è vero, perché un tempo si diceva, ma che bella camicetta, e uno diceva, ah, che bel... Si faceva finta di avere una cosa molto costosa. Adesso dice, ah, che bella camicetta, oh, ma questa, guarda, l'ho comprata, esatto, a 10 euro nella svendita del tal sito. Ormai, esatto, ci si vanta in questo modo. Esatto. Ma so che anche la nostra Cristina Lazzati ha una dritta su questa scia e ce l'abbiamo già al telefono. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Bellissimo. Eccoci anche qui. Tu sei una di quelle che si vantano e dice, l'ho pagata nulla? Ma in linea di massima, se effettivamente ho fatto un affare, sì, ecco, devo dire, ecco, che è bello poter dire l'ho comprata, è bella e ho speso poco, anche perché di fatto, come abbiamo visto e sentito poc'anzi, costa anche un po' di fatica quella di cercare sconti, andare, confrontare, eccetera. Insomma, uno ci può passare anche una serata, certo, per comprare un paio di scarpe, ed è giustamente divertente anche quello, cioè fa parte un po' del gioco, a prescindere poi dal risparmio. Piace un po' a tutti quello di portare a casa la cosa migliore al prezzo più basso, però non dimentichiamo che esistono comunque i negozi fisici. Ah, e certo, infatti... perché noi parliamo spesso di e-commerce e di acquisti online perché ci divertiamo, però ci sono persone che preferiscono ancora il negozio e soprattutto toccare e provare e sperimentare, sì, è legittimo anche quello. Anche perché di fatto la tecnologia non si è dimenticata dei negozi, anzi si stanno arricchendo sempre di più. Poi il sogno magari è quello di entrare in un negozio che ti parli, nel senso che ti dice guarda un po' questo, questo è giusto per te, questo ti sta bene e così via, senza... Solo se interrogato però, senza tanti chiacchiere, perché altrimenti diventa un gran disastro andarsene in giro con sempre questa vocina. Vi ricordate il film Her, in cui lui ha sempre questa voce di donna che via via poi, certo, si innamora, certo, eccetera, che era Scarlett, eccetera, Johansson, esatto, nella versione originale e Micaela Ramazzotti in italiano, certo. Esattamente, ecco, diciamo che proprio così anche noi in questo momento, però... Quello di entrare in un negozio che in qualche maniera interagisce bene con la tecnologia può essere interessante, certo, anche proprio in virtù di poter avere degli sconti. Una cosa che magari molti ascoltatori non sanno è che ormai esistono gli beacon. Cosa sono gli beacon? Sono delle fiche, sono grandi come delle fiche, vengono messe nei negozi e di fatto nel momento in cui si scarica un'applicazione in Italia, la più conosciuta è Check Bonus, questa applicazione, una volta aperta, questi piccoli affarini disposti nei negozi o addirittura sulla strada ti rilevano e ti dicono: vuoi entrare? Se entri ti diamo 100 punti. Come giocare ai Pokémon. Esatto, esatto. Catturi gli sconti, il che mi sembra anche più interessante, non avendo io l'età dei Pokémon, insomma. E quindi queste piccole fish parlano con la tua applicazione, la quale ti dà attraverso Bluetooth, e quindi non c'è nemmeno bisogno di avere un Wi-Fi e così via, ti dicono: se entri ti do punti. O piuttosto, se entri, ti verrà scaricato un codice a barre in cui potrai ottenere un 10% di sconto alla cassa, il che solo se hai quell'applicazione lì. Allora, prevengo già i messaggi che stanno per arrivare dagli ascoltatori. Ormai so già cosa possono scrivere, Luisa, vero? Scriveranno: ah, ma a questo punto veniamo irretiti, non siamo più liberi di scegliere perché la pubblicità... ci beh, cattura ma uno ovunque. La testa se la tiene bene attaccata e la fa funzionare, come dire. Sono d'accordo. E decide poi. Direi che poi di fatto comunque nel momento in cui ti scarichi un'applicazione di questo genere già hai in mente che questa cosa la gradisci. In seconda battuta la devi anche aprire l'applicazione una volta che sei in giro col tuo cellulare. In più, in linea di massima, guardando anche l'elenco di negozi che sono su Check Bonus, c'è cioè Trinelli, c'è San Magalghi e Viganò, ci sono tutti i negozi del gruppo Vegè, c'è Iper. Insomma, alla fine, voglio dire, mangiare dobbiamo mangiare, leggere si spera ricominciamo a leggere tutti un po' di più, e fondamentalmente se entrare in una UPIM, in una UBS avendo uno sconto non fa male, dico, secondo me non fa male a nessuno, altrimenti non ci entri proprio se non ti interessa comprarti il paio d'occhiali o l'ultimo paio diffuso per i bambini. Comunque, detto questo, funziona in questo modo. È chiaro che ci sono, come dire, la questione della privacy che viene spesso sollevata è una questione, uno, di salvaguardarla appunto accendendo, spegnendo o scaricando o non scaricando queste cose. In più, di fatto, in questi casi cosa ci guadagnano i retailer? Ci guadagnano per capire come noi funzioniamo all'interno del negozio. Quindi alla fine, come vantaggio anche per il cliente finale, sarà che tutte queste informazioni, se utilizzate bene, possono far sì che le nostre esperienze d'acquisto all'interno del negozio siano sempre più adeguate al nostro modo di essere. Di fatto poi arriveranno, adesso negli Stati Uniti ci sono già, ma arriveranno tutta una serie anche di sensori in cui che sono in grado di conoscere se siamo maschi, se siamo femmine, quanti anni più o meno abbiamo, quanto, come siamo addirittura vestiti, quindi possono anche suggerirci all'interno del negozio dei capi piuttosto che delle offerte che sono più adeguate a quello che noi siamo. In fondo, piuttosto che ammazzarci di promozioni di tutti i generi, di tutti i tipi, molte delle quali non ci interessano, in questo caso avremo solo quelle che fanno parte, come dire, a grandissime linee ovviamente del nostro modo di essere. E sinceramente non vedo, personalmente, però questa è la mia opinione, non vedo un'invasione della mia privacy nel momento in cui mi aiuti a scegliere meglio, piuttosto che addirittura ci sono anche dei dispositivi che nel momento in cui io mi porto le cose in camerino rilevano quello che ho portato in camerino e me lo salvano sul mio profilo. Ovviamente il profilo ho dato io l'ok a crearlo. Certo. E quindi potrò tornare indietro, sai, quelle cose per cui dici sì, ci penso, bene, se ci penso, poi quando torno magari non mi ricordo più com'era, come non era, eccetera. Invece così ce l'ho salvato, me lo vado a rivedere e se effettivamente voglio fare quel tipo di shopping posso sempre tornare nel negozio dopo averci pensato per bene. Io sono completamente d'accordo, ho previsto tutte le critiche e quindi abbiamo già risposto alle domande che so che stanno per arrivare, conosco i miei polli. Grazie a Cristina Lazzati per le dritte di oggi, al prossimo sabato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristina. Maria Luisa, secondo te le ho previste bene? Le hai previste bene, sempre la logica è quella del compromesso, do qualcosa, cedo qualcosa, in questo caso parte della mia privacy e ottengo qualcos'altro, cioè lo sconto, quindi mi sembra un ottimo scambio. Come diciamo sempre, basta saperlo, esatto. Basta sapere prima come stanno le cose. Esatto. Maria Luisa, basta sapere anche quando vai in onda Essere Avere. Beh, come sempre, domani sera alle 22. Ciao Marta. Al prossimo sabato. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Il sabato del villaggio. Guarda, ho qua davanti una persona molto importante. Non posso farla aspettare. Che cazzo sei tu? Ma come salta tutto? Mi ha obbligato. Ci sarebbe da tenere mio figlio, guarda, c'ha 10 anni. Capito, ma è il mio compleanno. Tanti auguri. Compleanno di Andrea. Stasera si sboccia. E lì come va? Tutto bene. Oh, vai a preparare la jacuzzi, va. Ma chi è questa? È l'idraulico. La polizia. C'è stato un problema a casa sua questa notte. Però abbiamo organizzato l'unità di crisi. E questa volta partiamo subito con un'uscita italiana. A volte chiedo al nostro super esperto così in coda, e l'uscita italiana di questa settimana qual è? Invece questa volta partiamo proprio con una delle commedie su cui così si punta questo inizio di stagione, i Babysitter. Franco, chi sono? Vale la pena andarli a vedere? Ma guarda, qualche risata te la fai oggettivamente, anche se è un film perfettibile, però i Babysitter sono una scanzonata compagnia di, si può dire, minchioni in radio, sì, più o meno. No? Radio 24 ogni tanto scappa. Ogni tanto scappa, e che sono coordinati dal duo Francesco Mandelli e Paolo Ruffini, che si prendono il carico, uno obbligato da un capo burbero e arrogante come Diego Battantuono, l'altro perché ci si ficca dentro, di tenere una sera un bambino, anche un po' birichino, diciamo così, a babysitting per permettere ad Abbattantuono di andare a fare quello che vuol fare. Il problema è che l'altro, cioè Ruffini, ci si butta pesce e la notte diventa una notte da leoncini, potremmo chiamarla così, perché è chiaro il riferimento cinematografico a quel film ed è chiaro anche l'escamotage narrativo, che è quello del found footage, cioè di una telecamerina trovata la mattina dopo, quando Abbattantuono e moglie ritornano nella loro villa devastata e trovano questa telecamera, ma non trovano più né il bambino né il babysitter. Ecco, allora... il, è il remake di un film francese che si chiamava Babysitting, appunto, remake abbastanza letterale ma chiaramente molto italianizzato. Quello che funziona è sicuramente Abbatantuono, sicuramente una serie di battute, di situazioni anche estreme, qui questo bambino che ne diventa poi protagonista tra l'altro viene sottoposto. Quel che funziona un po' meno è da una parte la recitazione di alcuni attori, diciamo così, un po' improvvisati, cioè non provenienti da un background cinematografico, e questa differenza si sente molto secondo me nel film, e anche un po' una regia che non riesce secondo me a prendere i tempi comici giusti per un film come questo. Tutto sommato però alla fine, come dicevo, qualche risata si fa, e per un paio d'ore di serenità insomma è anche già abbastanza. Beh dai, non è poco. Invece questa settimana escono anche filmoni di quelli con delle firme belle, pesanti. Assolutamente, è una settimana importante perché sono 8 film, però davvero non dico tutti da vedere, ma insomma c'è molta carne al fuoco, e sicuramente il punto più alto di questa settimana è Io, Daniel Blake di Ken Loach. Palma d'Oro a Cannes quest'anno, piazza grande con tanto di onorificenza al Festival di Locarno, arriva finalmente nelle nostre sale questo film che, come dicevo con alcuni colleghi, mischia un pochino Kafka con De Sica, cioè il neorealismo italiano in cui siamo ripiombati un pochino in tutta Europa, con questo sottoproletariato che ritorna ad allargare le sue fila e che è sempre protagonista centrale nel cinema di Ken Loach, certo, ovviamente, certo. E però anche l'uomo davanti all'istituzione che con la digitalizzazione, anziché diventare più facile, più semplice, più umana, è diventata ancora più disumana. È la storia di un uomo, Daniel Blake, appunto 59 anni, un po' di crisi cardiache recenti, che aiuta una persona che sta anche peggio di lui, ce la mette tutta, lui che è già marginale rispetto a questa società dell'efficienza, che aiuta qualcuno che lo è ancora di più in una Newcastle che sembra abbandonata ai propri ritmi. Ecco, bravissimo Ken Loach a raccontarlo, riuscendo a commuovere, riuscendo a toccare le corde anche del sentimento dentro questo film, che è assolutamente molto più universale di una storia inglese. Beh, meraviglioso. Concluderei con un'affermazione, anzi due affermazioni che si fanno sempre in questi casi. Ah, era meglio il libro. No, mi è piaciuto di più il film. Un classico quando si esce da una proiezione di un film tratto da un libro così ingombrante, ingombrante, ecco, assolutamente. Allora, Pastorale Americana. Ovviamente stai parlando di Pastorale Americana. C'è un Pulitzer alle spalle, c'è uno scrittore come Philip Roth, c'è un libro che è forse il suo capolavoro e che da tanti anni aspetta di diventare un film. È la storia di un uomo, detto lo svedese, una vita praticamente perfetta apparentemente, grande carriera, soldi, una moglie bellissima, fino a quando la figlia non combina una cosa inspiegabile, che è quella di un attentato nel quale muore anche una persona. Allora, la riflessione è quella chiaramente di un sogno americano improvvisamente incrinato, improvvisamente infranto. Dove ha sbagliato lo svedese? Cos'è che ha portato ad avere una famiglia così, ad avere una figlia che vuole ribellarsi in quella maniera così forte? Hai fatto bene, Marta, a dire. Da una parte c'è chi dice il libro, ma certo, il libro, l'intensità, le pagine, la scrittura. È sempre un errore andare a vedere un film. Quasi quasi è un errore andarlo a vedere avendo letto il libro, ma tante volte non ci possiamo fare nulla. Soprattutto con un libro così l'hanno letto talmente in tanti. Esatto. Che... D'altra parte però quando vai al cinema devi pensare che stai vedendo un film. E devo dire che in questo senso Ewan McGregor, che è regista e protagonista del film, un film nel quale poi nel cast abbiamo Dakota Fanning, Jennifer Connelly, David Stratton, tanti attori molto importanti, ecco, devo dire se la cava bene secondo me. Se la cava bene magari senza riuscire a rendere tutto fino all'ultima virgola di quella profondità di Roth. Però raccontando una storia appunto di un'America che si interroga su dove è finita e dove è finito quel sogno che ce l'ha fatta diventare per tutti la nazione guida. Ecco, devo dire che già questo basta per un... Ecco, lì ho detto 2 ore di serenità, qui 2 ore di impegno, però comunque 2 ore di grande cinema americano. Grazie Franco, l'appuntamento con te dunque dopo le 18 con La Rosa Purpurea. Ci sentiamo alle 18, Diego Abbatantuono e anche Rowan Johnson con noi per parlare di Piuma, ah, quindi certo, due interviste qui alla Rosa per parlare di tutto il cinema che c'è, come sempre. Sai qual è la cosa che mi fa più ridere? È che adesso non ridiamo più. Troppi scheletri dentro l'armadio con cui convivere. I sentimenti sono specie in estinzione. Bussano alla porta, vai a vedere chi è. Io non aspetto più nessuno da una vita. Da quella sera quando sei partita tu e fondi.